Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 31 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti per questa nuova settimana con Liberi Dentro ed Uradio. Buongiorno anche alla mia collega Antonella Cortese da Parma. Buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. E siamo sempre in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Oggi la nostra cronaca sociale inizia da un appello che si intitola Fuori malati mentali dal carcere. È anche un articolo a firma di Simona Maggiorelli sulla rivista Left. E vi dicevo, è anche un appello lanciato dalle due radicali Maria Antonietta Farina Coscioni e Irene Testa, che lo hanno per l'appunto lanciato nelle ultime settimane. Cosa riguarda? Riguarda il circuito delle REMS, cioè le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero le strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali. Questo circuito deve essere rafforzato perché sono tanti i detenuti con patologie psichiatriche in lista di attesa che però nel frattempo restano in carcere in un luogo che certamente non è quello adatto alla cura delle loro malattie. Il caso, quello di un ragazzo, un giovanissimo detenuto portato in un reparto di osservazione psichiatrica della casa circondariale di Torino, dove vengono trasferiti detenuti con patologie mentali, era un passo avanti rispetto al carcere, ma nell'agosto scorso ha tentato il suicidio, quindi è stato trasferito in una cella cosiddetta liscia, cioè le celle vuote, assolutamente vuote, per impedire gli atti di autolesionismo. Un intervento fatto per cercare di salvargli la vita, ma che poi si è rivelato insufficiente perché è stato trovato nudo, steso in uno spazio appunto necessariamente vuoto, senza neanche il materasso, senza acqua corrente, costretto a bere l'acqua del water, come hanno riferito i familiari e gli attivisti dell'associazione Antigone. Caterina, questo non mi sembra però che sia l'unico caso in Italia, o sbaglio? Eh no, perché la situazione delle persone condannate con problemi psichiatrici in Italia è drammatica, nonostante l'impegno e il lavoro degli psichiatri, degli psicoterapeuti che si impegnano quotidianamente. I motivi sono proprio la struttura carceraria stessa, il codice Rocco, che è di epoca fascista, che ancora lo governa. E a questo si aggiunge la pandemia, che ha avuto degli effetti devastanti e ha creato ulteriori problemi sulla salute delle persone, non soltanto delle persone affette da patologie mentali. Gli ospedali, come anche le carceri, durante la pandemia sono diventati praticamente blindati per questo necessariamente per garantire la sicurezza e la salute. Di tutto questo si è parlato nel Partito Radicale e con la tesoriera Irene Testa, si è parlato qualche settimana fa con la ministra Cartabia, che è la nostra ministra della giustizia, che ha dimostrato molta attenzione a questo problema, però naturalmente c'è ancora molta strada da fare. Senti, ma che cosa dicono i dati? Qualche numero che ci faccia inquadrare meglio il problema? Hai ragione, dall'appello Fuori malati mentali dal carcere apprendiamo che nei 109 istituti di pena italiani il 78% dei detenuti è affetto da una condizione patologica, di cui il 41% da una patologia psichiatrica. E dal rapporto di Antigone apprendiamo che nei 98 istituti visitati il 27% dei detenuti è in terapia psichiatrica e il 14% in trattamento per dipendenze. E naturalmente tutto questo si verifica perché dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici, gli ex OPG, la normativa prevede che il carcere debba essere la misura residuale, l'ultima spiaggia, diciamo, per questo tipo di detenuti, e invece non è così perché le REMS sono numericamente insufficienti. E naturalmente da tutto questo, come dicevo prima, la pandemia ha peggiorato il problema. Tant'è vero che il grande rischio in questa condizione di reclusione è che chi è in fragilità facilmente possa far innescare pensieri suicidaci. Ricordiamo che la media italiana di suicidi in rapporto alla popolazione carceraria è la più alta in quella tra i paesi europei, quindi è un dato molto molto molto grave. Quindi alla fine, Antonella, che fare? Sostanzialmente purtroppo non è una battaglia facile, come ha ammesso la radicale Irene Testa. Purtroppo nel recovery plan non è prevista una una misura per intervenire nell'ambito della salute mentale, però il fatto che la ministra Cartabia si sia interessata, per noi questa è una garanzia, perché è la nostra ministra della giustizia. Quindi siamo sfiduciosi e attendiamo su questo. Vabbè, speriamo bene a questo punto. Ascoltami Caterina, ma questa settimana che cantante ci presenti e che cosa ci canterà? Siamo tutta la settimana insieme a Elvis Presley, di cui il brano di oggi è Love Me Tender, una delle sue ballad più famose e romantiche, capace di far innamorare milioni di fan, come così è stato. Ascoltiamolo. Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and rieccovi, bentornati su Liberi Dentro, sulle note del nostro Elvis Presley, per tutta la settimana su Liberi Dentro Edu Radio. E Antonella, sei la nostra sempre finestra sul mondo, oggi dove ci porti? Oggi vi porto in Canada, ma vi porto in Canada per parlare di una situazione, diciamo, un po' politica che è legata alla migrazione. E dopo un anno in cui le restrizioni per la pandemia hanno fatto diminuire drasticamente l'immigrazione un po' ovunque, questo è un dato abbastanza diffuso in tutto il mondo, in tutta Europa anche, il Canada ha in programma di accogliere con un permesso di soggiorno permanente ben 400.000 migranti all'anno tra il 2021 e il 2023. E tra questi ovviamente ci sono migranti che si spostano per ragioni di lavoro, ricongiungimenti familiari e rifugiati e migranti che beneficiano di protezioni per motivi umanitari, ovviamente. Ma Antonella, sembrano un po' cose in controtendenza queste, no? Non credi? Eh sì, è vero, sembrano in controtendenza, però il Canada ha fatto una politica, diciamo, utilitaristica, concedimi il termine, perché da diversi anni l'economia del Canada dipende in buona parte dal lavoro degli immigrati e cresce anche grazie a loro. Considera che è un paese con una natalità piuttosto bassa, in realtà anche l'Italia è molto simile, in cui l'età media di chi lavora è molto alta sono molto vicine all'età pensionabile. Nonostante questo, comunque negli ultimi anni l'economia canadese ha continuato a crescere, proprio in controtendenza rispetto agli altri paesi, ma non certo grazie a un miglioramento dei processi produttivi, ma proprio per l'aumento della popolazione che lavora e consuma, soprattutto grazie agli immigrati. I danni all'economia provocati dalla pandemia hanno reso la necessità di avere sempre più immigrati molto molto impellente, in un paese che dal 1988 accoglie almeno 200.000 migranti ogni anno. E il programma triennale annunciato dal governo lo scorso ottobre ha addirittura allargato le ambizioni di accoglienza del paese. Ci sono 1,2 milioni di migranti con permesso permanente che il paese vuole accogliere in 3 anni, che corrispondono di fatto al circa il 3% dell'attuale popolazione del Canada, che è di circa 37 milioni e mezzo di abitanti. Ma quindi accettano chiunque voglia trasferirsi per lavoro in Canada? Non è proprio del tutto così, in verità. Il Canada è un paese molto selettivo sull'immigrazione, sugli immigrati da accogliere e ha sempre preferito quelli che nei programmi di accoglienza del paese vengono chiamati lavoratori qualificati, cioè persone che dimostrano di avere dei prerequisiti, la conoscenza delle lingue del Canada, che tra l'altro sono due, inglese e francese, che abbiano esperienza lavorativa e che soddisfino vari altri parametri. E adesso vuole farlo a maggior ragione, visto proprio la necessità dei lavoratori, e proprio per uscire dalla crisi. I lavoratori qualificati dovrebbero sostituire il 60% di circa l'1,2 milioni di migranti previsti per i prossimi 3 anni. È un piano ambizioso che però ovviamente coinvolge, come vi dicevo, anche ricongiungimenti familiari, quindi parenti, rifugiati e altri migranti che arriveranno per motivi umanitari. E, come vi dicevo, gli immigranti servono al Canada per abbassare un po' l'età media di chi lavora, anche perché al momento nel paese ci sono 3 lavoratori per ogni pensionato, ma è stato calcolato che nel giro di 15 anni il rapporto potrebbe diventare di 2 a 1. Un motivo che rende molto urgente l'inserimento di nuove persone, di nuova forza lavoro e quindi di immigranti. E quindi ha contribuito anche la pandemia a rendere ancora più impellente questa necessità. Ma dal tuo racconto sembra che tutto fili liscio, però voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, è veramente così? Allora, Caterina, in realtà il sistema di accoglienza del Canada è stato anche molto criticato da esperti che studiano appunto i processi migratori proprio per la sua selettività. Perché i migranti e i lavoratori vengono classificati e scelti sulla base della loro istruzione, conoscenza delle lingue ufficiali del paese e professione. E infatti il Canada è il paese con gli immigrati più scolarizzati tra i paesi dell'OCSE, cioè l'Organizzazione Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ultimamente, per necessità, i parametri si sono un po' rivisti, sono un po' meno rigorosi. Insomma, il lockdown e la necessità di aprire maggiormente le porte li ha resi meno stringenti. E è chiaro che comunque, dal loro punto di vista, la ricerca è sempre di migranti molto competenti che abbiano delle caratteristiche, diciamo, molto precise. Antonella, che musica lanciamo questa settimana? Allora, io propongo tutta la settimana dei brani di Franco Battiato, il maestro, musicista, esploratore, filosofo, pittore che ci ha lasciato poche settimane fa. E vi proporrei Tutto l'universo obbedisce all'amore, che è un brano del 2008. Ascoltiamolo. Rara la vita in due, fatta di lievi gesti e affetti di giornata, consistenti o no, bisogna muoversi come ospiti, pieni di premure, con delicata attenzione per non disturbare, ed è in certi sguardi che si vede l'infinito. Ridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi che si intravede l'infinito. Eccoci su Liberi Dentro Eduradio. Oggi parliamo dell'evento, del convegno tenuto il 21 di maggio. Sarebbe stato, guarda, un evento quasi impensabile solo pensarci lo scorso anno, del convegno appunto nazionale sulla comunicazione al e dal carcere nell'era del distanziamento sociale. Un convegno, dicevo appunto, lo scorso 21 maggio, a più di un anno ormai dal lancio della nostra trasmissione Eduradio, che è diciamo, il primo progetto in Italia nato nel 2020 per iniziative di cittadini impegnati a vario titolo nella casa circondariale di Bologna, Rocco D'Amato, cittadini che non potendo oltrepassare il blocco di ingresso per le misure contro la pandemia, hanno provato a scavalcare quel muro di cinta, almeno con le voci, quelle voci che sono ben note ai detenuti di cui si prendono cura. Oggi ne parliamo con Teresa Marzocchi, ex assessora al welfare della regione Emilia-Romagna e oggi all'interno dell'associazione Insight di Bologna. Teresa, tu ti sei occupata all'interno del convegno di coordinare le voci che hanno partecipato, le tante voci che hanno partecipato. Raccontaci un po' le origini di questo convegno, perché è un convegno sul carcere. Beh, più che un convegno è stato definito una maratona, perché l'interesse di tutti quelli che volevano, che hanno pensato a questo convegno è stato talmente alto che ha portato a un sacco di interventi, insomma. Perché è partito? Ma il convegno è nato grazie all'intuizione del garante di voler fare il report sull'esperienza di Eduradio e quindi l'iniziativa è partita con l'idea di presentare il report. Presentare il report ci è sembrato non sufficiente, nel senso che si può poi leggere, è pubblicato. Abbiamo colto l'occasione di presentare il report per riflettere sulla comunicazione nel carcere, in modo particolare nei tempi della pandemia, perché i tempi della pandemia hanno messo in evidenza la necessità di riflettere e di ripensare e di proporre nuovi strumenti di comunicazione per aumentare le relazioni e i contatti con le persone ristrette. Questo è stato particolarmente importante e interessante perché un momento così grave come è stata la pandemia ha permesso ad alcuni di pensare, di intuire che si poteva fare altro per far fronte a questa difficoltà. Questo fare altro è diventato un'opportunità per quel periodo, ma la riflessione del 21 maggio ha portato a pensare che è un'opportunità per il dopo, non in alternativa, ma in aggiunta favorevolmente, insomma. Grazie Teresa, e dicevo all'inizio che sono state molte le voci coinvolte in questa maratona, come dici tu, tra queste anche quella della ministra Cartabia che non ha potuto partecipare fisicamente, però ci ha lasciato un messaggio scritto. Noi abbiamo osato nell'organizzare il convegno chiedere al ministro, con poca umiltà, insomma, dicendo, beh, intanto glielo diciamo, sarà sempre lei a dire no. Invece, fin dal primo approccio, ovviamente l'ha chiesto il garante, perché il convegno ha titolarità del garante regionale, la richiesta è stata istituzionale. Noi come Inside e tutti i volontari siamo stati di supporto e di coprotagonismo, ma l'importante è che è un convegno istituzionale del garante della Regione Emilia-Romagna. La ministra ha detto gli uffici della ministra, quindi lei ha detto subito di sì, che era molto interessata e ci ha detto che non sapeva se avrebbe potuto partecipare, ma in qualche modo si sarebbe fatta presente. Che un ministro si faccia presente in un'iniziativa così residuale, perché Eduradio è veramente un'esperienza per noi grande, per gli sforzi che facciamo tutti per farla, per le speranze che abbiamo in essa, ma a livello nazionale è veramente piccola cosa, che abbia voluto guardarci con attenzione, mandandoci il messaggio che ci ha mandato, secondo me è un segnale importante, certo gratificante, ma io lo vedrei più come un segnale per noi di presa di responsabilità. Cioè, se un ministro si prende il disturbo di dire sì, ci pongo attenzione, sì, vi scrivo e ha scritto le cose che ha scritto, nel senso che per scrivere quelle cose sono andati a vedere che cos'è Eduradio, perché era un messaggio mirato. Questo vuol dire che è interessata a Eduradio, ma soprattutto, e per noi è l'importante, è interessata alle condizioni del mondo carcerario. Peraltro è già andata a visitare le carceri, non diamo per scontata attenzione di un ministro della giustizia a questo settore. Quindi noi guardiamo con interesse questo, sentiamo la responsabilità delle sue parole, della sua attenzione e del resto anche negli interventi successivi del convegno è emerso il suo interesse perché solo come è stato affrontato il problema delle vaccinazioni per il mondo delle carceri, è molto, molto importante questo passaggio che al pari del personale penitenziario anche le persone ristrette siano state tutte vaccinate. Pensiamo come ci sentiamo noi dopo aver fatto il vaccino, che non siamo ristretti se non nei limiti delle nostre ricche abitazioni, e pensiamo come si possono sentire queste persone dopo che sono state vaccinate. Grazie Teresa, e come al solito lanciamo un brano musicale a metà della nostra intervista, lanciamo Ron, una città per cantare, e noi ci rivediamo tra poco. grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Quante interurbane, per dire come stai. Rieccoci, bentornati sulle noti di Ron, una città per cantare. Siamo sempre con Teresa Marzocchi, che ci sta presentando a fine il convegno su Eduradio e anche sulla comunicazione dal e al carcere nell'era del distanziamento sociale, un po' quali sono state le conclusioni di questo importante convegno. E quindi volevo chiederti, a proposito di questo, come hanno partecipato le istituzioni al convegno e cosa possiamo trarre anche come cittadini liberi da questo evento grande sulla comunicazione. Ci saranno le basi per far sì che questo diventi realmente, questo di Eduradio, un servizio per la città e il carcere? Ma io sono stata ancora una volta ben impressionata di come hanno partecipato le istituzioni nella sessione a loro riservata. Noi avevamo chiesto un saluto in un convegno, alle istituzioni chiedi un saluto. Tutte le istituzioni presenti, e c'erano tutte, le persone che rappresentavano queste istituzioni non hanno solo salutato, hanno interagito sull'iniziativa, sui contenuti dell'iniziativa e sulla necessità e le modalità del loro sviluppo. Cioè, non è, io lo dicevo prima per il ministro, ma noi adesso stiamo parlando di istituzioni locali, dalle regioni al comune alle istituzioni penitenziarie, perché c'era il provveditore presente, ben presente, con delle proposte ben chiare, degli impegni ben chiari. Anche questa non è una cosa da dare per scontata. C'era il direttore del carcere, la presidente della regione, la presidente dell'assemblea legislativa, l'assessore e vicepresidente Lechlein, l'assessore del comune. Hanno detto tutti: è importante questa iniziativa. È importante perché noi ci teniamo alle persone che vivono in queste condizioni, perché per noi sono cittadini del nostro territorio. E il refrain che è passato sempre è stato: un altro quartiere della città. Beh, insomma, mettiamo in conto che queste istituzioni dicono che questo è stato un altro, è un loro quartiere, quindi c'è la loro attenzione. Altra cosa che dico, il passaggio, cioè il presidente di Lepida, Alfredo Peri, Le sue parole hanno molto colpito, perché Lepida è tante cose. Ha dimostrato affezione, interesse e volontà di sostegno in uno strumento comunicativo molto più alto rispetto a quello che è effettivamente Eduradio. E il fatto di averci accorto su Lepida ci ha legittimato come iniziativa e ci ha dato la possibilità, come iniziativa, come dire, come se fossimo riconosciuti come un'iniziativa istituzionale necessaria. Ha riconosciuto che Lepida ha interesse anche al mondo delle persone ristrette e ai temi che affrontiamo anche per la città. E nello stesso tempo essere accolti sul canale Lepida ci ha permesso di poter pensare che questa esperienza possa effettivamente diventare un'esperienza di carattere regionale, perché da questo momento è fruibile a tutte le persone ristrette e non nella regione. E ci possa far pensare che da un'idea di alcuni così avventurosi volontari possa diventare un servizio, che non vuol dire che è Eduradio il servizio, anche, per l'amor di Dio, valore delle iniziative e dei contenuti, ma è un servizio, questo tipo di contenitore, che arriva nelle stanze di tutte le persone ristrette e attraverso questo contenitore puoi fare scuola, servizio sanitario, servizio sociale, cultura, informazione. Questo è il messaggio che ci hanno lanciato le istituzioni. Io credo che non si possa trascurare questa cosa e vada presa come non una... siete stati bravi, no, adesso avete avuto una bella idea, adesso bisogna andare avanti. È chiaro che la volontà di andare avanti c'è, bisogna vedere se adesso anche per le istituzioni dalle parole si può passare ai fatti, perché i volontari di Eduradio non possono andare avanti di certo da soli, è un'avventura così, insomma, alla giornata per ora, quindi se diventa istituzione ci vogliono anche le basi di coinvolgimento delle istituzioni, che peraltro in questo periodo c'è stato, che possa essere stabile e continuativo nel tempo. Grazie Teresa, grazie di tutto, e aggiungo io che ci vogliono anche gli ascoltatori, non solo le istituzioni, quindi ascoltate Eduradio e lanciamo un'ultima canzone sempre legata al tema città, perché è bellissima questa similitudine, questa immagine del carcere come quartiere della nostra città, e allora Negramaro, sei tu la mia città. Grazie Teresa, alla prossima. Strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare, e sciogliti i capelli nel fango solo se ci riesci, e allacciami i tuoi dubbi alle scarpe se poi tu non mi credi. Se non mi credi. Il cielo lo reggono ancora i miei difetti, le mani si incastrano e formano grattacieli, le scuse attaccale bene così non cadi, le unghie affilate resistono tagliando i vetri, e asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi, accendimi di notte le insegne dei più bei ricordi, concedimi la pace dei treni senza più. E rieccovi, ben ritrovati dopo aver ascoltato le parole di Teresa Marzocchi, che ha moderato il convegno su Eduradio sulla comunicazione dal e al carcere nell'era del distanziamento sociale. Noi ci ridiamo appuntamento a oggi pomeriggio, se ci seguite su Teletricolore, oppure tra poco se ci state seguendo su Lepida, con le nostre rubriche del giorno. Quindi oggi abbiamo AVOC con Voci da Dentro. Vi ricordo sempre di scriverci, redazione liberidentro@gmail.com, oppure potete sempre inviarci una posta a Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna. Eduradio sempre con voi, proprio là dove siete. Seguiteci tutta questa settimana, sempre anche domani il nostro appuntamento consueto per i buongiorni alle ore 9 su Radio Città Fujiko, alle ore 13 su Lepida TV e alle ore 10.30 su Teletricolore. Buona giornata a tutti e tutte. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.